Da noi siamo un gruppetto di mamme che si frequenta perché i bambini vanno più o meno nelle stesse scuole di prossimità, quindi siamo tutte vicine, non dobbiamo fare grandi spostamenti e i nostri bambini si conoscono, quindi questo era una cosa che agevolava il tutto. Ieri, dopo averli tenuti in casa ciascuno per conto proprio tutto il giorno, avendo visto che appunto la stessa delle scuole proseguiva, abbiamo deciso di organizzare invece oggi un babysitting, diciamo, collettivo, in modo da aiutarci un po' tutti quanti in questa situazione difficile. Per cui una parte di noi vive diciamo, in un condominio che ha a disposizione una saletta e che quindi era possibile affittare per tutta la giornata di oggi, e siamo riusciti a trovare una babysitter anche là in zona, quindi non doveva fare grandi spostamenti, e organizzando dei turni tra diciamo, le mamme libere in aiuto alla babysitter, ciascuna di noi ha potuto diciamo, avere appunto, un turno con i bambini, con questi 9 bambini, in totale erano 9 bambini, e però anche un paio di ore per fare le proprie cose personali. Io un po' ho lavorato, so che altre hanno fatto la spesa, e i bambini soprattutto sono stati insieme tra di loro, cosa che insomma li ha resi sicuramente molto contenti, più di quanto non sarebbe stato se fossero stati da soli. E è stata una cosa molto bella, anche perché insomma fatta un po' all'improvviso ieri pomeriggio, quando è arrivata la notizia alle 2:30 che le scuole sarebbero state chiuse anche oggi. Però ne sentivamo un po' tutti l'esigenza, sia adulti che bambini. Chi non poteva mettere diciamo del tempo, perché c'erano anche persone che non avevano la possibilità di fare un turno in aiuto alla babysitter con i bambini, hanno portato vettovaglie varie, c'erano un sacco di panini alla cioccolata e tantissime cose buone per far stare i bambini insieme ai giochi, e credo che sia stata una bella esperienza di comunità. Ecco, oltre alla questione logistica, visto che appunto poi i genitori lavorano e si trovano in difficoltà, che impatto ha avuto, come dire, anche affrontare un momento così difficile per i più piccoli? Insomma, viverlo insieme ha avuto un impatto positivo? Assolutamente sì, infatti stamattina mia figlia, quando si è svegliata, mi ha quasi 5 anni, 4 anni e mezzo, mi ha detto: mamma, io voglio andare a scuola. E io oggi le ho detto: guarda, non andiamo a scuola, però ci vediamo comunque con gli amichetti. E lei ha cambiato proprio espressione. E immagino che qualcosa del genere sia stato anche per gli altri bambini, perché quando poi si sono trovati tutti lì, erano tutti molto contenti, hanno veramente giocato, hanno iniziato a giocare moltissimo, e tra di loro, ecco, ripeto, loro si conoscono, quindi era una situazione più semplice. Però sicuramente io l'ho visto nell'impatto con la mia figlia più grande. Io ho un bimbo di 2 anni e mezzo, lui è più piccolino, queste cose le esprime meno, però lei l'aveva proprio espresso chiaramente che sarebbe voluta tornare a scuola. Infatti io, nella mia memoria, avendo fatto anche il lockdown in particolare con lei, quello del 2020, ho pensato: beh dai, almeno ci possiamo vedere, ecco, che era già un passo avanti rispetto alla situazione che abbiamo vissuto precedentemente nel lockdown del 2020. Ecco, il lockdown forse ci ha messo anche, come dire, nell'ordine di idee di saperci organizzare in situazioni di emergenza, quindi. Secondo me sì, io all'epoca avevo usato altre strategie perché la bambina era più piccola e poi non si poteva stare in comunità, però certamente questa situazione mi ha richiamato diciamo l'idea che in quei giorni avevo di dover fare qualcosa perché la vita, in particolare della mia bambina, non fosse completamente stravolta. E in questo caso almeno c'è stata la possibilità comunque di mantenere la comunità vicina, e credo che in realtà in questi momenti sia la cosa che fa la differenza, sia per i grandi che per i più piccoli, perché anche vedersi stamattina tra genitori, lasciare il bambino a un genitore che conosci e fare due chiacchiere, insomma è stato un sollievo per tutti, ecco, sicuramente.